Ciao Cristina e ciao a tutti. Alla fine anche a New York è stato deciso congiuntamente dal governatore Cuomo e dal sindaco De Blasio che ci sarebbe stato il coprifuoco dalle 11 di sera di lunedì alle 5 di mattina e per oggi martedì è confermato che sarà anticipato alle 8 di sera come fatto in altre città. La differenza di New York con le altre 20 città maggiori protagoniste delle proteste era stata proprio questa assenza di coprifuoco e una relativa poca militarizzazione della polizia. A New York non ci sono blindati della Guardia Nazionale nelle strade, come a Minneapolis, neanche polizia in assetto antisommossa né utilizzo di lacrimogeni. I vari tronconi dei tanti cortei hanno percorso letteralmente decine di chilometri facendo uno zigzag per le strade e le avenue per non farsi chiudere dalle forze di polizia. Sono riusciti a manifestare molto pacificamente, anche grazie al regime praticamente di lockdown della città che è ancora deserta, e in alcuni casi si sono visti degli improvvisati cordoni di sicurezza proprio dei manifestanti per evitare che piccoli gruppi potessero innescare incidenti. Tutto molto pacifico quindi, e durante il giorno. Nella giornata di domenica i manifestanti sono riusciti addirittura ad arrivare a Times Square, che normalmente non viene mai raggiunta dalle manifestazioni perché la polizia la blinda preventivamente in quanto meta principalmente turistica. Al grido di I can breathe e no justice, no peace, sono state decine di migliaia le persone che hanno sfilato anche lunedì, senza nessuna tensione fino al tramonto. Il buio è stato negli ultimi 4 giorni il fattore scatenante dopo ore e ore di manifestazioni pacifiche in tutti e 5 i quartieri di New York. Nella notte di lunedì però la città ha deciso di raddoppiare la presenza di polizia per arginare la deriva notturna e a manifestazioni terminate e ha raddoppiato gli agenti portandoli da 4.000 a 8.000. Il risultato è comunque quella serie di microfocolai sparsi per tutta Manhattan, di piccoli gruppetti che spaccano vetrine e fanno qualche saccheggio. Un dato importante però, forse anche questo figlio della scarsa militarizzazione della polizia di cui vi parlavo prima, è stato il mancato rispetto del coprifuoco da parte di interi tronconi di manifestanti. Alle 11 meno qualche minuto erano ancora in migliaia a marciare in vari quartieri e quindi sfidando questa nuova misura, che è un po' in contrasto con l'atteggiamento di relativa tolleranza in cui la città di New York si era fatta carico rispetto alla durezza del confronto armato di tutte le altre grandi città degli Stati Uniti. Uno degli aspetti più interessanti di questa ondata di proteste, almeno a giudicare dalla presenza sui social, è il tentativo da parte di molti tra organizzatori e media, e soprattutto in opposizione alle posizioni estreme di Trump, che anche ieri ha chiesto di fatto arresti di massa, pene severissime, oltre appunto aver dichiarato Antifa un gruppo terroristico, è quello di sottolineare la vicinanza di una parte delle forze dell'ordine, dei rappresentanti politici, cittadini e statali nei confronti delle proteste. Per esempio a New York sia Cuomo che De Blasio hanno entrambi dichiarato più volte di essere dalla parte dei manifestanti. A prescindere dall'escalation notturne o meno e dai risultati di questi coprifuoco che vengono sempre più anticipati proprio per prevenire la degenerazione notturna, a detta delle organizzazioni le proteste non sembrano destinate a fermarsi, almeno fino a quando non verranno arrestati tutti e quattro i poliziotti responsabili. Ciao, grazie, alla prossima!